fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Ed eccoci qua in Resto Radio Convento in compagnia delle amiche che vengono da... Ditelo voi, al microfono. Che fate, non lo dite? Provato. Ah, eccole. Oh, brave, si sono accese, avevo dimenticato io di schiacciare play, giusto? Adesso invece funzionate perfettamente. Mi sentite tra l'altro, vero, in cuffia? Sentite bene. E le altre mi sentono dal vivo, sì, giusto? Sì. Come si chiama la sposa? Io sono Monica! Monica, la conoscete? No, allora è vero. Tanto, tra l'altro? Allora ragazzi, intanto che non ci sente Monica visto che ha sulle cuffie, ditemi tutte un pregio e un difetto. Partiamo con i pregi e con i difetti di Monica? Pregi è più facile. Allora partiamo, vai te. Pregio, una pazza. Allora facciamo così, prima ti presenti, ci sono... Sono Stefania. E il pregio di... Sono una delle testimoni. Sì? E come pregio una pazza. Come pregio una pazza. Poi andiamo avanti. Sono Patrizia. È simpatica. È simpatica? Tu non sei testimone, vero o no? Ok. Oh, pazza, simpatica? Ciao, sono Francesca ed è una persona veramente adorabile. Perfetto, tanto sono i complimenti questi. E dopo quando gli faccio dire i difetti che rimane registrato, chi l'ha detto, eh? Tanto lei non ci sente per ora, sta ascoltando un altro. Stai ascoltando qualcos'altro, vero? Fai vedere che balli. Che fai? Ecco, vedete, lei è su un altro canale. Poi, che abbiamo? Io sono Sumana, sono la sua damigella, è simpaticissima e allegra. Ecco, damigella, perché c'è anche quella che porta il velo? Ah, che storia, c'è anche questo? Oh, super equipaggiata, eh? Che bello. Poi abbiamo? Io sono Elena e Monica è una ragazza solare e divertente. Solare e divertente, quindi tutti dicono che sei solare e divertente praticamente. Questo, eh? Ci siamo? Confermi? Certo. No, tu devi far finta di ballare, che noi, ecco, tra l'altro è su un altro pianeta. Però intanto che non ci sente, facciamo il giro ancora con la presentazione e col difetto. Allora, Stefania, difetti, oddio. È sentito difetto. Ah, facciamo così, il primo difetto che non deve avere è che è permalosa. È permalosa? No? No. Ah, buono, quindi possiamo dire tutti i difetti, tanto non si arrabbia. Ok, quindi vai Stefania. Che fai, chiedi l'aiuto del pubblico? Non è una brava cuoca. Sarà contento futuro marito, ecco. Abitatevi. Non sa cucinare. Aspetta. Allora, confermi? Esatto. La illumina. Ok, questa l'ha confermata. Poi cosa abbiamo? Un altro difetto? Va bene, mi piace che ne ha pochi, può anche non averne, giusto? Non ne ha neanche uno? No. Sumana? Non ne ha neanche uno, confermo. Okay, Sumana sembrava un telequiz, tipo. Ah, vedete che ve li ricordate i telequiz degli anni 90? Si teneva le cuffie, gli amici a casa non hanno potuto vedere, però si teneva le cuffie, tipo. E ha anche fatto finta di schiacciare un pulsante che non esiste. E fa, non ha neanche un. Confermi? Confermo. Ok, ecco. Sumana conferma, e quando Sumana conferma, è tutto confermato. Lei è lui, ok. Che fai? Fai glu. No. Sei anche tappata il naso, stava andando giù. Cioè, sta mischiando una serie di giochi. Non è al mare. Anche se sembra di essere dentro un acquario qua dentro, no? Nella radio del convento. Che fai? Stavi ascoltando? Sei commossa tra l'altro, Veronica? No. Ah no! Agli occhi lucidi, è commossissima! Sì, mi sono commossa! Che bello, anche tu con... Perché hai schiacciato il pulsante, per quello? È stato... Beh, cos'hai schiacciato un moscerino te invece che... Hai dato una mano, mi tiri giù la radio così! Perfetto, c'è qualche ragazza single tra di voi? Sì! No, dite i nomi, tutte... Elena, Francesca... Praticamente tutte! Colpo di scena incredibile. L'unica sposata. Sei l'unica sposata che ha già dato lei e tutto il resto. No, ma è fantastico. Stasera sono tutte sposate, ragazzi. Siete le uniche quattro single del locale. Veramente. Sì, oltretutto mi hanno fatto l'addio nubilato qui. Ah, te hanno fatto. Cioè, cinque anni fa? Parla vicino al microfono. Era successo qualcosa di particolare? Sì, me ne hanno fatte di tutti i colori. Di tutti i colori, no? Stasera siete stati un po' più buoni, sì, con Veronica. Monica. Mi ricordavo solo il Nika. Sì, dai, siamo stati abbastanza. Ah, era quella di prima, buoni. Era la sposa di prima, ecco perché hai visto. Finisco tutte per Nika e. O Nika, tutte per Nika. Ma penso. Hai visto? C'è solo la M che ti. Che, che ti distingue, ma no, non è solo quello che ti distingue, a te ti distingue la simpatia, la, quali erano le cose positive? L'altruismo. L'altruismo. L'altruismo. Tra l'altro abbiamo il capo lì che praticamente mi sta intimando. No, ma sta ascoltando la radio, perché sapete, se scaricate l'applicazione ascoltate la radio in diretta, quindi lui starà ascoltando sicuramente quello che stiamo dicendo. Ecco. Quindi diteli ciao DJ Gale, ditelo al microfono. Ciao DJ, ciao! Grazie per averci dato l'opportunità. Grazie per averci dato l'opportunità di ascoltare, di parlare in questa radio. Brava. Continuate che adesso ci sente, vai. Grazie mille ancora, sei super spettacolare. Ecco, perché noi ci tenevamo tanto, dai. Ci tenevamo tanto, questa cosa era il primo desiderio sulla mia scaletta dei sogni. Quindi dai un grande saluto ancora, grazie. No, aspettate qua ancora un secondo, salutate anche me, dai. Grazie mille anche a te. Grazie. E chi sono io? Non ti ricordo io. Sandrino. Grazie Sandrino, sei spettacolare anche tu. E grazie a voi le ragazze di Rovato. Ciao.